IA, intelligenza in prima linea. Se c'è quella artificiale, cos'è quella umana? Di Federico Pedrocchi. Conflitti e problemi seri, potremmo intitolarla così questa puntata di IA Intelligenza in prima linea. Sarà pur necessario parlare di situazioni nelle quali tutta questa strumentazione intelligente, mettendo insieme tutto, noi, le macchine, può far nascere problemi seri. Parliamo un po' di queste auto che si guidano da sole, che stanno arrivando a breve, quanto pare. A Lucia Pallottino, ricercatrice al Centro Enrico Piaggio di Pisa, dove si occupa di macchine che si muovono, per dirla rapidamente, ho chiesto cosa ne pensa di alcune riflessioni che si stanno facendo in merito al conflitto a bordo dell'auto. E cioè, guido io? No, guido io, dice la macchina. Lasciami il volante, non ci penso nemmeno. Come la mettiamo, insomma? Sì, questo problema ce lo stiamo già ponendo anche a livello di ricerca, è quello che viene chiamato shared autonomy, quindi un'autonomia condivisa tra il robot e il pilota, perché o il robot in generale è completamente autonomo e quindi l'umano non ha possibilità di pilotarlo e quindi non ci sono problemi, ma quando si parla di veicoli o di aerei, perché succede anche con gli aerei, capire quando è e quant'è l'autonomia del robot rispetto al pilota è un problema, proprio perché il fattore umano è importante. Questo è piuttosto evidente nel settore più militare con i piloti di aerei, dove il pilota che ha l'esperienza non vuole cedere totalmente il controllo del mezzo alla parte dell'intelligenza artificiale, perché la sua esperienza va anche a sensazioni, no? Certo. Ma lei cosa pensa? Che appunto è meglio non creare questa cosa, cioè la macchina ce la fa da sola e buonanotte. Sa perché mi viene in mente? Perché è come quando andiamo in macchina che c'è uno di fianco che continua a dirti no, frena, gira là, attenzione a quello, e si crea una situazione drammatica per chi guida. Lei cos'è? È più pro macchina? Beh, diciamo che saranno pro macchina le generazioni future, quelle che cresceranno con queste macchine così. Certo. Noi che siamo cresciuti con un altro tipo di tecnologia, forse siamo più resti vogliamo guidare a fare questo passaggio, esatto. Se vediamo la Tesla, ha avuto, se non sbaglio, 2 incidenti nell'ultimo, da quando usano la macchina a guida autonoma, su milioni di chilometri percorsi. Sì, in generale. Quindi, in effetti, dire, molto più sicura di una, una macchina. Ma poi emergono anche altri problemi da risolvere, un po' seri, a dire il vero. Sì, si può parlare di una nuova tipologia di vandalismo legata ai robot che, essendo autonomi, possono ricevere, e così come è già successo nelle veicoli autonomi, possono ricevere degli attacchi dalla gente comune che prova a mettere in crisi l'autonomia stessa del robot, portando al limite la funzionalità del robot stesso o cercando di comprometterne le funzionalità normali. Ecco, tipo? Questo è successo. È tipo come è successo alla macchina di Google con un ciclista che, andando avanti e indietro più volte vicino alla macchina, più o meno involontariamente, questo magari non è dato saperlo, comunque ha messo in crisi il sistema. La difficoltà proprio di questi sistemi autonomi, che si basano su quello che sta succedendo intorno, è il fatto che quello che succede intorno non è del tutto prevedibile. Però allora, all'inizio noi l'abbiamo definito neovandalismi, ma allora è bene, credo, dividere in due, perché da una parte, certo, se qualcuno vuole perfidamente divertirsi a confondere la macchina facendo cose strane, no? Girandogli intorno 5-6 volte è un conto ed è una fragilità. Però invece, se questo avviene involontariamente, non è una cosa così plateale, ma come la presenza dei ciclisti in relazione alle macchine, che è una cosa che conosciamo molto bene, beh, allora lì c'è una fragilità del sistema invece. Esatto, sicuramente il problema è rendere il sistema sufficientemente sicuro e soprattutto garantire la sicurezza del sistema. e qua ci viene contro anche tutta l'assenza di una legislatura che ci consente anche di tutelare sia chi costruisce le macchine sia chi le usa poi, se parliamo di macchine autonome o comunque di robot in generale, nel momento in cui devono essere a contatto con persone. Entriamo in un terreno difficile, perché lei dice a un certo punto dovrebbe esserci una regolamentazione che dice, per esempio, ai ciclisti che se sono nelle vicinanze di un'auto che si guida da sola non devono fare certe cose, se le fanno c'è una multa, c'è una penalità. Potrebbe essere questo. Senta, c'è qualche altro problema che dovete maneggiare voi nel prevedere questo tipo di mezzi? Certamente, c'è l'esasperazione di questo vandalismo che sono invece gli attacchi voluti dagli hacker. E quindi sono i nuovi attacchi, saranno gli attacchi del futuro, che sono sempre più legati alla tecnologia e meno alla classica bomba, come si può pensare. Certo. E quindi gli attacchi che sono voluti sui robot, ad esempio passando attraverso le varie centraline che sono a bordo dei robot, che consentono a tutte le varie parti del robot di comunicare. Lei dice quando comunicano tra di loro si aprono delle porte e lì entra. Ma ci sono stati già dei segnali, dei casi? È stato dimostrato che a un certo punto macchine cui sono intervenuti dall'esterno sulla centralina dei freni, quindi hanno fatto improvvisamente frenare il veicolo mentre il pilota non se lo aspettava, creando un incidente. Usciamo dalle strade ed entriamo nell'immenso castello degli algoritmi con Cosimo Accoto da Boston, dove è visitor scientist al Massachusetts Institute. Benvenuto Accoto. Ciao e salve a tutti. Con te parliamo di algoritmi, facendo una prima fondamentale distinzione, perché si è soliti pensare che algoritmo e software siano un po', come dire, la stessa cosa, no? Invece non è così, dobbiamo specificarlo. Sì, in realtà diciamo si tende a confondere le due dimensioni, ma in realtà sono abbastanza diverse. Non è semplicissimo distinguerle, per cui capisco insomma che le persone abbiano un po' di difficoltà. Ci sta. Se volessimo usare un'immagine per semplificare, potremmo dire che l'algoritmo è una sorta di ricetta, quindi di sequenza di istruzioni con cui diciamo alle macchine che tipo di obiettivo diciamo raggiungere. Okay. Dopodiché poi questa ricetta viene concretizzata attraverso la programmazione del codice software che rende eseguibile quella sequenza di istruzioni. Il software è il forno, diciamo, no? Tu lo metti dentro. E, diciamo, è l'ambiente, l'ambiente forno, che cucina. Poi... Certo. Questa importante distinzione è perché in questo modo entriamo dentro il mondo degli algoritmi, come ho detto prima, e puoi incominciare a descriverci queste missioni diversificate con i problemi che si portano appresso degli algoritmi. Diciamo che noi viviamo oggi sempre più dentro una società che possiamo definire algoritmica, dal punto che se oggi gli algoritmi invisibili che governano il mondo non funzionassero, il mondo diciamo così, si bloccherebbe e non riuscirebbe a funzionare. Algoritmi sono quelli, ad esempio, che ci consentono di, faccio un esempio, di filtrare nella posta elettronica lo spam indesiderato, ma algoritmi sono anche le istruzioni che oggi vengono utilizzate dalle macchine e sempre più in futuro dalle macchine intelligenti, dalle automobili che si guidano da sole per andare nelle nostre autostrade e svolgere in maniera perfetta il loro compito senza incidenti. Sì. Naturalmente questi meccanismi invisibili, perché non li vediamo, agiscono, diciamo, ne vediamo gli effetti, sono stati sviluppati finora da scienziati, da programmatori, da statistici, con un certo, se vuoi, controllo su quelli che sono gli esiti di queste istruzioni. Sempre di più però, in un mondo complesso in cui viviamo, gli algoritmi vengono costruiti dalle macchine e spesso gli esiti delle istruzioni che le macchine si danno, non sono perfettamente predicibili. Quindi nella sostanza noi abbiamo un meccanismo e delle dinamiche che servono in qualche modo a noi per vivere oggi. Gli algoritmi proteggono ad esempio i soldi che abbiamo in banca e non possiamo vivere e non potremmo vivere senza algoritmi. Dopodiché poi però questi algoritmi, una volta che vengono messi in campo, se sono deterministici, in qualche modo possiamo anche capire che tipo di esiti danno, in alcuni casi è molto complicato dire prima, dire in anticipo che tipo di risultato produrrà. Scusa Cori, ma tu dici la macchina se lo costruisce, la macchina che ha il suo software di base per funzionare, però costruisce anche un algoritmo, cioè qualcuno gli avrà detto però devi fare un algoritmo per andare dentro quella roba lì, no? E, allora, finora, però la macchina se lo costruisce? In situazioni molto complesse in cui ad esempio è necessario attingere a tutta una serie di database enormi e abbastanza complicati, qui noi in generale diamo, se vuoi, in pasto serie abbastanza sostanziosa di database, di informazioni e di dati, ed è poi la macchina con delle procedure di astrazione progressiva, procedono loro in qualche modo a costruirsi dei modelli, dei modelli del mondo e poi di conseguenza agire. Allora, in questo caso dipende molto anche spesso dagli ingredienti, diciamo così, che diamo in pasto all'algoritmo. Una ricetta, come ben intuiscono gli ascoltatori, si compone di due cose naturalmente, cioè le istruzioni che diamo per fare il dolce e ovviamente anche, come dire, i materiali d'origine, quindi la farina, lo zucchero, eccetera, che noi in qualche modo poi assembliamo. Allora, c'è un caso clamoroso, anzi in realtà ne stanno venendo fuori molti di casi in cui gli algoritmi, partendo dai dati che elaborano, in qualche modo discriminano. Uno di questi casi è abbastanza clamoroso. Se uno, come dire, inserisce all'interno di un motore di ricerca la stringa acconciature femminili professionali, il motore di ricerca restituirà immagini di donne bianche perfettamente acconciate. Se invece di cercare acconciature professionali cerchiamo acconciature non professionali femminili, l'algoritmo restituisce invece soprattutto immagini di donne nere acconciate. Cosa significa? Significa che l'algoritmo in questo caso è andato a pescare all'interno dei database iconografici che autonomamente noi carichiamo in rete e ha dedotto nell'un caso che, come dire, per professionali bianco, in qualche modo invece non professionali nero. Cosimo Accotto ha scritto Il mondo dato, 5 brevi lezioni di filosofia digitale, edito da Egea, e lì troverete altri approfondimenti su questi temi. Bene, alla prossima, buona intelligenza a tutti e a tutte, e se volete scrivere intelligenza artificiale con 2 A al centro, intelligenza artificiale @radio24.it.